GR24, il sole 24 ore. Giustizia, il PDL presenta il testo di legge sul processo breve, prescrizione in 2 anni per il primo grado, il PD è un colpo di spugna. Terrorismo, smantellata una cellula algerina a Milano, 17 arresti in Italia e all'estero. BCE, l'Europa ha ripreso a crescere, ma servono politiche a sostegno del lavoro. Formula 1, dopo la radiazione Flavio Briatore reagisce e chiede alla federazione un maxi risarcimento da 1 milione di euro. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, benvenuti a questa edizione di GR24. Cominciamo dalla giustizia perché una delle novità previste dal testo di legge sul processo breve è la prescrizione in 2 anni per il primo grado, presentata oggi poco fa da esponenti del PDL al Senato. La proposta di legge, ce ne parla Elisabetta Fiorito. Proprio così Alessio, un disegno di legge per il processo breve, 3 articoli depositati qui in Senato che prevedono la prescrizione dei processi di primo grado se sono trascorsi più di 2 anni dalla richiesta di rinvio a giudizio e i reati sono inferiori a 10 anni di reclusione. L'imputato può rifiutare la prescrizione, precisa poi il deputato PDL, avvocato del Premier, Nicolò Ghedini. Il testo è stato sottoscritto anche dalla Lega e riguarda anche i processi in corso. Ma non finisce qui, il capogruppo alla Camera PDL Fabrizio Cicchitti annuncia anche un testo sull'immunità parlamentare, infuriata l'opposizione. Anna Finocchiaro del Partito Democratico ha sbattuto il testo del disegno di legge sui processi brevi contro il muro, mentre il segretario del partito Pierluigi Bersani commenta così, sentiamo. Attenzione, perché se si tratta di fare processi brevi ma farli è un conto, se si tratta di usare norme titolate processi brevi per non farli processi o per non fare alcuni di questi processi, non si può essere d'accordo. E se si arriva uno scontro su questi temi, non è responsabilità dell'opposizione, che noi non andiamo a cercarceli questi scontri, ci vengono sempre proposti. Per Bersani poi non è da proporre ora il tema dell'immunità. Insomma, come avete sentito, è veramente di nuovo scontro tra maggioranza e opposizione. Per il momento qui da Palazzo Madama è tutto, a voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito. E intanto l'Associazione Nazionale Magistrati parla di 100.000 processi a rischio. Ma che cosa prevede esattamente la legge sul processo breve e quali sono i procedimenti che potrebbero non arrivare a sentenza? Si parte dalla durata complessiva, 6 anni in tutto, 2 per ciascun grado di giudizio. Il problema non è tanto per l'appello e la Cassazione, quanto per il primo grado, visto che il conto alla rovescia scatterebbe dal rinvio a giudizio. In media, solo per la prima sentenza servono 1.400 giorni. E dato che il testo prevede l'applicazione della misura anche ai processi in corso, molti risulterebbero già prescritti. 100.000, secondo l'Associazione dei Magistrati, tra cui Crack Parmalat e Cirio, in cui sono coinvolti migliaia di risparmiatori che vedrebbero andare in fumo tutte le richieste di risarcimento. Ma difficilmente arriverebbe alla fine anche il processo Anton Veneta, per non parlare di quelli per le morti bianche, Eternit e Thyssen. Anche il processo per l'immondizia di Napoli, dove è stato rinviato a giudizio Bassolino, rischierebbe, scontata l'archiviazione dei processi Mills e Mediaset. Ci sono poi altri punti che potrebbero violare la Costituzione. La legge dovrebbe applicarsi solo agli incensurati e solo ai processi in primo grado, ma la carta stabilisce che la legge è uguale per tutti. E ancora, la legge si applicherebbe solo ai delitti con pene superiori ai 10 anni, ma la Lega vuole tenere fuori gli immigrati. Difficilmente la Consulta potrebbe passar sopra la massima 2 pesi e 2 misure. Valeria De Rosa, GR24, il sole 24 ore. E a questo era dedicato il nostro sondaggio di oggi, riforma giusta quella della giustizia o fatta su misura per Berlusconi? Era questa la domanda, queste invece le vostre risposte. Riforma utile per il paese, come dice la maggioranza, o rischio di legge ad personam per bloccare i processi a Berlusconi, come teme l'opposizione? Il disegno di legge sul processo breve era al centro del nostro sondaggio di oggi e per il 79% di voi non c'è dubbio, è una norma fatta appositamente per salvare il Premier. Una posizione che Gaetano Pecorella, avvocato di Berlusconi, respinge così. Non la dobbiamo fare perché può incidere sul processo Berlusconi, o la dobbiamo fare fra 10 anni o 6 anni o quello che sarà, quando si saranno conclusi questi processi. Beh, non credo che i tempi della giustizia debbano essere condizionati dai tempi dei processi di Berlusconi, anche perché a questo punto non facciamo una riforma perché pensiamo ad una persona specifica, chissà quanti altri ci sono che hanno gli stessi problemi. Bianco o Nero torna domattina alle 8.30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. La carica era rimasta in ballottaggio dopo la decisione dell'ex fondatore della Margherita, Francesco Rutelli, di lasciare il PD e di fondare Alleanza per l'Italia. Ebbene, Rutelli lascia il Copasir. Il presidente del Comitato Parlamentare per le Informazioni e la Sicurezza ha informato questa mattina i membri del Comitato della sua decisione di rimettere il mandato. Il PD indichi, ha detto Rutelli, un altro candidato. E ora parliamo della maxi operazione della Guardia di Finanza italiana in collaborazione con altri paesi europei che ha portato allo smantellamento di una cellula di terroristi algerini. Servizi di intelligence e analisti del Ministero dell'Interno erano concordi. L'Italia è il crocevia di cellule operative o rimaste in sonno che fanno capo alla rete più estesa del terrorismo islamico. La Guardia di Finanza ha fatto così scattare un maxi blitz impegnando oltre 100 uomini, 17 persone arrestate in Europa, 6 ordinanze di custodia cautelare emesse in Italia contro una banda di algerini. Gran parte degli arrestati erano iscritti nelle liste dei terroristi redatte dall'ONU. L'associazione si finanziava attraverso borseggi, rapine, furti per un volume d'affari di 1 milione di euro in 3 anni. Documenti falsi consentivano agli associati libertà di movimento su tutto il territorio europeo nordafricano e lo scopo dell'organizzazione era l'invio di denaro in Algeria. L'operazione è nata dalla strettissima collaborazione tra la Guardia di Finanza e unità di antiterrorismo francesi, austriache, svizzere, spagnole, inglesi ed algerine. Daniele Biacchessi, GR24, Il Sole 24 Ore. È stata smantellata una cellula che raccoglieva finanziamenti per le attività terroristiche fuori dall'Italia. Ha commentato così il ministro dell'Interno Roberto Maroni l'operazione di cui abbiamo appena parlato. A margine del Consiglio dei Ministri ha parlato Roberto Maroni. Allora ci colleghiamo con Vincenzo Miglietta che sta seguendo proprio i lavori del Consiglio dei Ministri. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Sul fronte interni, lo avevi anticipato da studio, il ministro Maroni ha anche annunciato il provvedimento di nomina del prefetto Paola Basilone a vice capo della polizia, è la prima donna che ricopre questo incarico dagli inizi degli anni 90. Interventi economici sulla pubblica amministrazione in primo piano, inoltre nella riunione dell'esecutivo iniziata da pochi minuti. In tema di fisco dovrebbero arrivare i primi benefici legati allo scudo fiscale. Il Consiglio dei Ministri si appresta infatti ad approvare un decreto per ridurre gli acconti alle imprese. Si tratterebbe di differire al momento del pagamento del saldo una piccola percentuale, il 2-3% dell'IRES o dell'IRAP che si paga a novembre. Le risorse saranno raccolte, come detto, dal gettito dello scudo fiscale. Arriverebbe inoltre la carta dei doveri della pubblica amministrazione. Collegata alla finanziaria, la norma chiederebbe alle amministrazioni di usare un linguaggio semplice e chiaro, agli impiegati di essere disponibili e cortesi, di adeguare periodicamente i termini entro i quali i procedimenti devono concludersi, atteso anche il riordino degli enti di ricerca. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. E per l'economia ci sono da registrare oggi i numeri della Banca Centrale Europea. I paesi di Eurolandia devono dare importanza cruciale a politiche che mirino a favorire l'occupazione, ha detto la BCE nel suo ultimo bollettino mensile. La BCE che ha anche rivisto al rialzo le stime di crescita. Dicevamo, gli analisti hanno aumentato di 0,6 punti percentuali la stima del PIL di Eurolandia per quest'anno, portandola ad un -3,9%. E la notizia era oggi in esclusiva sul Corriere della Sera. Sfuma l'ipotesi di una separazione morbida tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario. Si preannuncia invece una dura battaglia legale. L'ho riportato appunto oggi il Corriere della Sera. Veronica Lario avrebbe depositato in tribunale un ricorso individuale di separazione con addebito. Che cosa significa e che cosa potrebbe comportare anche per l'eredità della famiglia Berlusconi? Maria Luisa Pezzali lo ha chiesto al matrimonialista Cesare. Le separazioni sono fondamentalmente di due tipi, o sono separazioni consensuali, cioè vuol dire che i coniugi hanno trovato tutti gli accordi sui tre punti che per la gente normale, qualsiasi, sono figli, casa, soldi. La separazione giudiziale invece viene chiesta quando su uno di questi elementi o su tutti e tre questi elementi non c'è un accordo. Nella separazione giudiziale poi uno dei coniugi può chiedere, oppure lo possono chiedere anche tutti e due, che la responsabilità sia addebitata all'altro. Quando è che viene dato un addebito? Quando il coniuge ha violato i doveri che derivano dal matrimonio, cioè è una dizione molto semplice, però ci sta dentro tutto, ogni comportamento che è contrario ai doveri del matrimonio. Nell'ambito della richiesta di addebito si può anche chiedere un risarcimento del danno quando il comportamento di un coniuge ha danneggiato l'equilibrio psicofisico dell'altro. L'avvocato Rimini al microfono di Maria Luisa Pezzali. Adesso andiamo a Teramo. Hanno trascorso la prima notte in carcere Danilo Levakovic e Sante Spinelli, due rom di Alba Adriatica, arrestati con l'accusa dell'omicidio del commerciante di 37 anni Emanuele Fadani. Davanti al PM i due hanno negato ogni responsabilità, accusando dell'omicidio il terzo giovane accusato e tuttora latitante. E nella stessa zona fu ucciso lo scorso agosto in circostanze analoghe un ragazzo di 23 anni. Ieri sera ad Alba Adriatica una fiaccolata commemorativa si è trasformata in una sorta di caccia all'uomo. Allora Cristina Carpinelli ha chiesto al capitano dei carabinieri Pompeo Quagliozzi qual è la realtà che si vive nel paese. Sentiamo. Campi rom non ce ne sono. I ragazzi compreso che hanno si sono resi artefici di questi delitti, risiedono ad Alba Adriatica, hanno frequentato tutte le scuole qui ad Alba, però è una popolazione che non si è mai integrata completamente. Noi la magistratura abbiamo lavorato di concerto tutto il giorno per arrestare i due personaggi che sono resi artefici di questo efferato delitto e di denunciare a piede libero il terzo che attualmente è assolutamente ricercato, insomma. Ma le tensioni purtroppo è che ci sono e gli animi si devono rasserenare, perché insomma non si può rispondere con la violenza alla violenza. E ora quello di cui vogliamo parlare è un appuntamento musicale, perché ci sono due CD con molte registrazioni sconosciute o in versione diversa da quella ufficiale in uscita, che riguardano Luigi Tenco, inediti, e il titolo della raccolta del cantatore ligure è morto 42 anni fa. Oggi la presentazione al Teatro Ariston di Sanremo, domani l'uscita nei negozi. Guarda se io dovevo innamorare proprio di te. Guarda se io è una delle canzoni poco note o addirittura inedite di Luigi Tenco, contenute nel doppio CD Inediti che esce domani. Si tratta di un'opera discografica che dà nuovo spessore al grande valore artistico di un personaggio fondamentale della musica non solo italiana, che continua ad appassionare a 42 anni dalla tragica morte. Luigi Tenco Inediti è stato curato da Enrico De Angelis, uno dei maggiori critici musicali del nostro paese e responsabile artistico del Club Tenco. De Angelis ci spiega quale criterio è stato seguito nel selezionare le canzoni di Tenco. Il criterio è stato quello di trovare canzoni che il pubblico non aveva mai sentito prima, oppure delle registrazioni diverse di canzoni note con testi diversi, musiche diverse da quelle con cui erano uscite su disco, arrangiamenti completamente diversi. Nel CD compaiono canzoni di Tenco mai pubblicate come Padroni della Terra, traduzione di Le Déserteur di Boris Vian, o tre brani che il cantautore piemontese non aveva mai inciso e che sono stati quindi affidati ad interpreti d'eccellenza contemporanei come Massimo Ranieri, che canta Se tieni una stella, Stefano Bollani, che interpreta No no no solo strumentale, e Morgan che reinterpreta Darling Remember, traduzione in inglese di Vola Colomba. Paolo Panceri, GR24, Il Sole 24 Ore. È già, perché il presidente americano parte oggi per una visita ufficiale che inizierà domani. Inutile dire l'importanza di questo vertice tra Stati Uniti e Cina, le due grandi superpotenze. Cerchiamo però di capire quali possono essere i temi sul tappeto. Lo chiediamo naturalmente a Stefano Pistolini. Buongiorno Stefano. Buongiorno. Che tra poco, lo ricordo, alle 13.30 condurrà una nuova puntata di Buongiorno America. Stefano. Tra due ore prende il via questo primo viaggio del Presidente degli Stati Uniti in Asia. Sicuramente Obama cerca in giro per il mondo quella patina di splendore che si è decisamente offuscata in patria, dove c'è questo alternarsi, insomma, i successi e insuccessi, e ci sono indici di gradimento in calo ormai inesorabile. Le tappe sono quattro: Giappone, Cina, Corea del Sud e Singapore. Negli ultimi due casi si tratta di di paesi legati da amicizia, anche da una certa sottomissione agli Stati Uniti, in molto interesse per la tappa giapponese, un interesse più che altro di carattere rappresentativo, psicologico. Si proverà a fare un passo avanti, Obama è deciso a esistere in questo senso, un passo avanti diplomatico ma anche spirituale nella elaborazione di quel distacco, non è mai stato completamente sanato dopo il bombardamento nucleare di Hiroshima e Nagasaki. E poi Cina, dove invece, come dire, il gioco si fa serio, si farà duro, si parlerà soprattutto di affari, si cercherà di rinsaldare questo patto ormai a due sensi che unisce Cina e Stati Uniti, incontri di altissimo livello, sicuramente discussioni economiche di primo piano. E poi una curiosità per vedere come i cinesi, anche loro a modo loro, a Shanghai e Pechino, le due tappe del viaggio in Cina di Obama, come i cinesi risponderanno, no, all'effetto Obama, quello che per adesso ha funzionato in tutto il mondo. Grazie Stefano Pistolini. E insomma, dagli scenari globali di questo viaggio di Obama in Cina precipitiamo, avrebbe voglia di dire, nella crisi della politica e del governo in Sicilia. Sentiamo che cosa è successo. La crisi siciliana da serpeggiante si è fatta esplicita. Ieri, al culmine di una settimana di tensione che ha attraversato i partiti e i gruppi dell'Assemblea regionale, la giunta Lombardo è stata bocciata sul documento di programmazione economica e finanziaria. 28 voti a favore su 70 presenti. A sostenere il governo isolano sono rimasti solo i deputati del Movimento per l'Autonomia e i ribelli del PDL del Sud guidati da Gianfranco Miccichè. Ai voti negativi scontati di PD e UDC si sono aggiunti quelli dei deputati PDL dell'area Schifani-Alfano. La giunta non è tenuta alle dimissioni, ma il capogruppo del PD Cracolici le ha già chieste. Si deciderà tutto martedì prossimo, quando l'Assemblea esaminerà due leggi propedeutiche alla manovra correttiva, come pure la mozione di censura all'assessore Armao. Già oggi però il co-coordinatore del PDL in Sicilia, Giuseppe Castiglione, ha detto che il governo lombardo è al capolinea. Nei partiti ci si muove per evitare le elezioni e trovare un'intesa. In teoria tutto è possibile, da un nuovo patto di centrodestra a un inedito accordo trasversale. Il rischio però è che a vincere siano le clientele politiche e che a perdere siano le riforme e il buon governo. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. E anche le attività economiche nella regione potrebbero perderci da questa situazione di stallo della politica in Sicilia. Paolo Piacenza ne ha parlato con il presidente di Confindustria Sicilia, Ivan Lobello. In Sicilia questi avvenimenti non sono casuali, sono dovuti in qualche modo a evidenti contraddizioni del modello socio-economico portato avanti in questi anni, un modello basato su criteri assistenziali, clientelari, su uno spreco rilevante di risorse pubbliche che oggi insomma diventa difficilmente sostenibile. E intorno a questi nodi si sta generando uno scontro politico di grandi proporzioni. La nostra posizione come Confindustria è semplicissima: noi vorremmo capire meglio nel merito le proposte degli schieramenti contrapposti. Noi abbiamo dato atto al governo lombardo di aver portato avanti, diciamo così, alcuni progetti di riforma, penso tra tutti quello sulla sanità, grazie al lavoro positivo dell'assessore Russo, e di aver messo mano ad altre grandi questioni. Ecco, vorremmo che il dibattito si svolgesse su questi temi. Questo dunque Ivan Lobello al microfono di Paolo Piacenza. Adesso siamo allo sport, giornata speciale per la nazionale azzurra di calcio che, in vista dell'amichevole di sabato a Pescara contro l'Olanda, è all'Aquila per gli azzurri, allenamento allo Stadio Fattori, poi pranzo con gli sportivi locali e soprattutto visita alla zona rossa della città distrutta dal terremoto il 6 aprile scorso. Adesso invece parliamo di Formula 1, perché Flavio Briatore torna a farsi sentire, pronto a dar battaglia in tribunale contro la sua radiazione dal circus dei motori. Accecati da un personale desiderio di rivincita e quindi chiaramente intenzionati a farlo fuori. Questa è la tesi su cui poggia il ricorso che Flavio Briatore presenterà al Tribunale di Parigi il prossimo 24 novembre contro la decisione del Consiglio della FIA, allora ancora presieduto da Max Mosley, di radiarlo dalla Formula 1 per il famigerato Crash Gate di Singapore 2008. La contraccusa di Briatore è anticipata dall'inglese Guardian. L'ex manager della Renault vuole il totale annullamento della sentenza più €1 milioni come risarcimento danni. E anche Pat Simmons, l'ex ingegnere capo del team francese, ha deciso di seguirlo nell'appello, sperando di vedersi cancellata la squalifica di 5 anni che gli è stata comminata dopo le dichiarazioni di Nelsinho Piquet. Per Briatore, le procedure adottate durante le indagini preliminari, come pure nell'udienza di settembre, dove si decise la sua messa al bando dalla Formula 1, avrebbero violato il regolamento internazionale della FIA e anche le stesse leggi francesi che hanno giurisdizione sulla federazione, impedendo così un processo equo. Mosley ed Eccleston erano accecati dal desiderio di vendetta nei miei confronti, denuncia Mr. Billionaire. La parola ora passa al tribunale parigino. Dario Ricci, GR24, Il Sole 24 Ore. E in chiusura un appuntamento, scrittori in città fino a domenica a Cuneo, scrittori, scienziati e intellettuali discuteranno sul tema dell'11ª edizione, ovvero sia Luci nel buio. I nomi noti sono assicurati da Andrea Camilleri a Niccolò Ammanniti, da Alessandro Baricco al giallista texano John Lansdale. Fra gli scienziati, Margherita Hack e Umberto Guidoni. Ci saranno pure Beppino Englaro e la mamma di Carlo Giuliani per un dibattito su come hanno reagito alla perdita di un figlio. Sobrietà e compostezza nonostante le polemiche che li circondavano. Una manifestazione, scrittore in città, che propone una 60ina di eventi. E fra questi ci piace segnalare quelli rivolti ai giovani che hanno il sogno nel cassetto di diventare scrittori. Ce ne parla uno dei curatori, Giorgio Vasta. Da una parte c'è un momento di scouting dove autori inediti leggono brani dei loro testi a editor di varie case editrici. Il torneo letterario invece è la parte dedicata a una vera e propria competizione. 6 autori che hanno esordito in questi ultimi 12 mesi scrivono un racconto che leggono in teatro e questo racconto viene premiato sul versante letterario da una giuria tecnica e poi sulla performance di lettura dal pubblico presente in sala. Tutte le informazioni su www.scrittoreincitta.it. Alessandra Tedesco, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione, curata da Alessio Maurizi che è anche in studio, al coordinamento Maria Piera Ceci, in regia Filippo Aureggi. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.